della libertà. Ma passavo il tempo sempre chiusa in me, mi chiedevo se ti rimpiangevo o no. La mia libertà non la voglio più, perché se manchi tu. Ma che importanza la libertà? Ogni volta che mi sveglio cerco te, mentre sto dormendo sogno te. Ora mi domando cosa ho fatto mai, quando quella sera io ti dissi vai. La mia libertà non la voglio più.